Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Impegnati da anni nell'attività di prevenzione, sostegno e recupero di persone che vivono in situazioni di emarginazione e disagio, gli assistenti sociali sono stati però a volte anche al centro di polemiche per avere sottratto dei minori alle loro famiglie, sulla base di motivazioni che poi si sono rivelate inconsistenti. Il caso più clamoroso è forse quello di Angela, una bambina di 6 anni che nel 1995, mentre si trovava a scuola, venne prelevata da un assistente sociale accompagnata da un carabiniere. Il padre era accusato di avere abusato di lei. La piccola Angela sapeva bene che non era vero, ma subisce estenuanti interrogatori, esami e test nel tentativo di estorcerle una confessione. Al termine del processo, il padre finisce in carcere e lei in orfanotrofio. Dopo 2 anni, l'uomo viene assolto in appello e successivamente anche in Cassazione. Nonostante abbia dimostrato la propria totale innocenza, l'uomo non può però riabbracciare la figlia, affidata ormai a un'altra famiglia. Oggi quella bambina ha 20 anni e racconta in un libro la sua terribile esperienza. In questo passaggio, Angela rievoca i momenti drammatici degli interrogatori. La parte più complessa e impegnativa del lungo periodo dei miei esami al CAF fu quella degli interrogatori. Arrivarono all'improvviso. Non riesco bene a ricordare quanti furono. Rammento perfettamente, invece, la stanza del centro in cui si svolgevano. Era un ambiente ampio, dominato da un bianco freddo. Una parete della camera era quasi interamente occupata da un grande specchio. Nel mezzo della stanza si allungava un tavolo di formica tutto bianco con 2 sedie. In alto, ai 2 angoli opposti del soffitto, erano appese 2 piccole telecamere. Ricordo bene il primo interrogatorio, quello mi è rimasto impresso nella memoria più degli altri. Ormai erano trascorsi 6 mesi dal mio ingresso al CAF. Carla e la psicologa mi avevano preparato a lungo su quello che avrei dovuto dire quando mi fossi trovata nella grande stanza con lo specchio. Avremmo parlato delle brutte cose che mio padre mi faceva la sera, quando andavo a letto. E anche mia cugina Antonella, con le sue insistenti domande, aveva fatto la sua parte. Con le sue frasi ambigue su mio padre e sulla sua maniera strana di toccarmi, mi aveva spinto a un punto di rottura del mio precario equilibrio e del mio rifiuto. Se perfino mia cugina sapeva, forse qualcosa di vero poteva, doveva esserci. Alla fine mi ero convinta che non fosse così grave raccontare una verità di cui non ero proprio sicura. Dentro di me, ormai, tutto era così nebuloso e confuso che non sapevo nemmeno io che cosa fosse reale e cosa no. Desideravo solo che quella mia orribile vita senza affetti finisse e il più presto possibile. Volevo tornare a casa. Quando entrai nella stanza dell'interrogatorio al fianco della psicologa, però, le idee mi si confusero ancora di più. Pensai che quello era davvero un posto freddo e strano e mi sentii paralizzata dalla paura. Soprattutto perché dietro al grande specchio si notavano continui movimenti. A tratti mi sembrava di scorgere delle ombre, come persone, ma non era possibile distinguerne le fattezze. Che cosa nascondeva quella parete? Chi c'era là dietro? La psicologa si accorse della mia agitazione e, mostrando una disponibilità insolita, cercò di tranquillizzarmi. Anche se tanta sollecitudine mi sorprese, ogni suo sforzo fu inutile. Io continuavo a domandare chi si nascondesse dietro allo specchio e ogni tanto lanciavo un'occhiata verso il muro. «Nessuno, Angela, sta tranquilla, non c'è nessuno», continuava a ripetere la dottoressa. Però si capiva chiaramente che diceva una bugia. Del resto, entrando, mi aveva mentito anche sulle telecamere. «Non preoccuparti», aveva detto, notando che le avevo scorte al primo sguardo. «Tanto sono spente, ma io avevo visto la minuscola spia rossa che era accesa su entrambi gli apparecchi e quella luce la contraddiceva con evidenza. Le telecamere e lo specchio mi avevano preoccupata molto. Così, di fronte alle prime domande che la psicologa mi rivolse, mi bloccai. Del resto, provavo anche vergogna». L'argomento di cui avremmo dovuto parlare era ciò che mio padre faceva con me alcune sere. Erano cose brutte, lo lo avevo capito bene, anche se ormai, dopo averlo sentito ripetere tante volte, non mi turbavo nemmeno più. Quei comportamenti, sui quali avrei dovuto diffondermi in particolari, io proprio non li capivo, ma sapevo che erano sbagliati, che erano il male. Quando me ne parlavano nel centro, provavo una stanchezza infinita e mi sentivo quasi privata della mia personalità, schiva di sensazioni totalmente differenti da quelle che fino alla comparsa di Carla avevano guidato la mia esistenza. Non mi piaceva l'insistenza delle mie guardiane e all'inizio non intendevo assecondare quel gioco. Non l'avrei mai voluto, però ormai verità e irrealtà si sovrapponevano fino a confondersi, un po' come il mare quando tocca la spiaggia e per un istante non riesce a capire dove finisce l'acqua e dove comincia la sabbia. Ma il giorno del primo interrogatorio, la psicologa mi indispettì con le sue bugie. Dal suo nervosismo compresi che stava accadendo qualcosa di più grande intorno a me e che il gioco era diverso dal solito. Il risultato fu un mutismo totale. L'esame venne sospeso e uscimmo dalla stanza. Nella piccola anticamera ci aspettava Carla. Le due donne erano molto irritate. Per alcuni secondi mi scrutarono, tacendo. Poi Carla spezzò quel gelo. «Se torniamo lì dentro e racconti le cose di cui abbiamo parlato tante volte», disse, «tu torni a casa». Restai in silenzio. Non mi fidavo delle sue promesse, ma l'assistente sociale, guardandomi negli occhi, tornò all'attacco. «Se dici tutto, ti faccio vedere la mamma». Mi afferrai a quella concessione come a una ciambella di salvataggio e un «va bene» mi uscì dalla gola come un gemito a lungo represso. Quella speranza mi avrebbe spinto a fare qualunque cosa. La dottoressa e io tornammo nella stanza dell'interrogatorio, ma per me rientrare in quell'ambiente e ripiombare nel mutismo fu tutt'uno. La paura per il mistero dietro lo specchio era troppa. La psicologa allora cominciò a guidarmi. Parlando con un tono convincente, mi ricordò quello che avevo detto tante altre volte, invitandomi a confermarlo. A ogni domanda io annuivo, tenendo il mento stretto sul petto e gli occhi bassi. Nella mia testa di bambina, ovviamente, non riuscivo a comprendere la gravità dei comportamenti che stavo attribuendo a mio padre. Quando molto tempo dopo scoprii il vero significato di quello che mi aveva spinto a dire, fu orribile. Mi sentii sporca e per la prima volta veramente violentata. Per tutto il tempo dell'interrogatorio, dopo ogni mia silenziosa risposta, fissavo lo specchio animato, sperando che mia madre fosse lì dietro, tra quelle ombre che si intravedevano appena. Poi l'esame finalmente terminò. Però dall'atteggiamento della psicologa compresi che la promessa di poterla riabbracciare non sarebbe stata mantenuta. «Ma così non vale!» gridai angosciata. Le spie rosse delle telecamere si spensero. L'interrogatorio a quel punto era concluso. Qualcuno mi trascinò fuori dalla camera dove ci aspettavano Carla e altre persone. Sconvolta per l'inganno, io urlavo, strepitavo, tiravo calci e pugni e mordevo chiunque mi capitasse a tiro. Mi trascinarono nel corridoio e da lì feci appena in tempo a vedere mia zia Cristina, la madre di Antonella, che usciva dalla porta accanto. Alla sua vista pensai di impazzire. Era la seconda persona della mia famiglia che mi sfiorava, il primo parente adulto che mi passava accanto in quel disperante periodo di separazione. Mia zia poteva essere la mia inattesa via di fuga. Non potevo non tentare di aggrapparmi a lei per cercare di evadere da quell'incubo. Cercai di correrle dietro, chiamandola con tutto il fiato che avevo in gola, ma tante mani mi trattennero con energia. Non ci fu nulla da fare. Nel tentativo di scappare, strappai anche la gonna del vestitino bianco a fiori che mi avevano messo per quell'occasione e che mi piaceva tanto. Mi riportarono in lacrime nell'ala delle bambine. Ero sconfitta, annientata. Camminavo e intorno a me tutto diventava buio. Anna mi accolse e mi portò in camera. Mi ci lasciò da sola, senza cena. «Così impari a comportarti meglio», disse, sollevando l'indice, e chiuse la porta alle sue spalle. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Angela L., Caterina Guarnieri e Maurizio Tortorella, «Rapita dalla giustizia», «Come ho ritrovato la mia famiglia». Rizzoli Editore, 216 pagine, 9 euro. Letture di Radio 24. Spesso capita che un presunto colpevole, dopo aver passato anni in carcere, venga rilasciato con tante scuse in quanto comprovato innocente. Ma non sempre è facile dimostrare la propria innocenza e quando si viene accusati ingiustamente per presunti abusi commessi su minori, diventa quasi impossibile. La cronaca degli ultimi anni è piena di casi che riguardano adulti ingiustamente accusati e minori sottratti ai genitori, per reati che poi sono risultati inesistenti. Dai numerosi errori giudiziari commessi da Pietro Forno, il magistrato che negli anni 90 era diventato famoso più per aver messo in carcere degli innocenti che per la sua lotta alla pedofilia, fino al clamoroso caso dei fratellini di Basilio, sottratti ai loro genitori dagli assistenti sociali per un presunto disegno osceno. Ma uno dei casi più clamorosi di mala giustizia è probabilmente quello che nel 2000 ha coinvolto Don Giorgio Govone, parroco di un paesino in provincia di Modena. Tutto ha inizio con un bimbo di Massa Finalese in provincia di Modena, allora di 3 anni, sottratto insieme alla sorellina a una famiglia con gravi problemi economici, che pure ha sempre lottato contro quel provvedimento dei servizi sociali. Il bambino è preso in assistenza dalla ASL di Mirandola, nella quale militano molti degli aderenti al centro privato Cismai, che si ritrova spesso negli episodi di questo tipo. Sballottato in ogni dove e separato dalla sorella, il bambino vive anni difficili tra affidi provvisori e orfanotrofi, mantenendo un saltuario rapporto con la famiglia d'origine. La situazione precipita quando gli psicologi del servizio sociale ritengono sia meglio sospendere le visite ai genitori, in virtù di un disagio e del calo di rendimento scolastico che il bambino, a loro parere, manifesterebbe. Non ci vuole molto perché i sintomi specifici vengano letti come indice di presunte violenze sessuali e partano le denunce penali ai torvi e aggressivi genitori, che presumibilmente non manifestavano grande simpatia nei loro confronti. Il bambino, secondo gli operatori, sarebbe stato violentato durante i weekend trascorsi in compagnia del padre e quando la perizia medico-legale ordinata dal PM smentirà questa ipotesi, gli psicologi sposteranno l'attenzione sul classico piano del sintomo d'abuso e riterranno che il bambino sia ovviamente attendibile, con conseguente incarcerazione dei genitori. Fin qui il caso sarebbe banalmente simile a molti altri che affollano tribunali e centri d'accoglienza. Ma siamo solo al prologo di quella che sarà descritta dallo psicologo Giancarlo Pietri come un classico esempio di psicologia della folla. Il bimbo, che nel frattempo ha ormai 8 anni, sempre seguito dai tutori diventati ormai più investigatori che terapeuti, è un fiume in piena. Inizia ad accusare anche il fratello più grande, rimasto in casa con i genitori, di violenze sessuali inaudite, delle quali non solo lui, ma anche la sorellina, sarebbero stati vittime. In un crescendo parossistico nel quale ormai viene detto di tutto, partono 3 filoni di inchiesta, nei quali procure e tribunale per i minorenni ritengono sia normale prassi avallare qualsiasi cosa provenga dagli psicologi inquirenti, mentre i verbali si riempiono di «il bambino avrebbe detto». I giornali locali già parlano di rete pedofila, secondo il noto principio giornalistico per il quale 2 violentatori sono un branco, un assassino recidivo è un serial killer e 2 che si scambiano foto porno, una lobby. Il resto del Carlino, dell'11 giugno 1997. Scoperta una rete di pedofili. Calamorosi sviluppi nell'indagine sul bimbo di Finale. 7 persone indagate dai PM. Violentato dal padre e dal fratello. Sono stati arrestati, ma emerge un giro di pedofili che usava anche altri minori. 3 gli indagati. Inchiesta nella bassa modenese, partita dalle rivelazioni di una vittima. Il giorno successivo è la volta della Gazzetta di Modena, svolta nell'inchiesta, tra i pedofili 4 donne. Lo stesso giornale, 13 giugno 1997, perquisite case di donne, inchiesta sul gruppo di pedofili nella bassa, proseguono le indagini. Svanite, se c'erano, le fotografie coi bimbi. Parroco assiste il padre disperato in carcere, padre e figlio sono allo stremo. Il 50enne in carcere continua a proclamarsi innocente. Ormai il delirio è collettivo, impossibile ricostruire le 1000 trame e i 1000 protagonisti di questo intreccio. 18 bambini sono prelevati dalle loro famiglie, 37 persone risulteranno indagate. Le carceri si riempiono di pericolosi pedofili. L'ASL di Mirandola, che si costituirà poi parte civile in tutela dei bambini, continua a tenere le fila del gioco. Monsignor Ettore Rovatti, storico e giornalista, scriverà in seguito. L'incompetenza dei vari operatori, sottolineata velatamente dal professor Caffo di Telefono Azzurro, sarà messa in luce e presa in considerazione purtroppo solo alla fine, dopo tragedie, sentenze di condanna e drammi familiari. Per la psicologa, i suoi affidatari rappresentano la prima esperienza professionale ed è alle prime armi anche l'assistente sociale di riferimento. La gente di buon senso Si chiedeva angosciata com'è possibile che considerino colpevoli persone certamente innocenti ed era portata a pensare a un complotto. In realtà quelle conclusioni erano frutto di premesse errate. Gli operatori erano in buona fede, ma del tutto inadeguati. Alla fine si scoprirà che tutti coloro che hanno avuto a che fare con i casi della Bassa Modenese, l'ASL di Mirandola, gli operatori sociali, gli psicologi, i periti, erano legati allo stesso gruppo, il CISMAI, un centro che l'Ordine Nazionale degli Psicologi non ha mai riconosciuto, in quanto ritiene i suoi metodi alquanto discutibili e troppo colpevolisti. Il vortice che sta inghiottendo mezzo paese non è destinato a placarsi presto, e dalla commedia all'italiana la vicenda si sposta sul piano dell'horror fantasy. Il povero Don Giorgio, insieme a molti altri preti della zona, viene coinvolto in fatti che hanno dell'incredibile. Si tratta del parroco di San Biagio a Massa Finalese, amatissimo dai suoi parrocchiani, detto prete camionista, per quel suo incessante correre con un Iveco mal ridotto tra i bisognosi delle campagne emiliane. La bambina terribile, che diventerà la principale accusatrice, afferma infatti che parecchie volte due zii, il nonno materno e il parroco, l'avrebbero prelevata all'uscita da scuola e condotta nell'adiacente boschetto, dove l'avrebbero violentata a turno. Aggiunge che i parenti la violentavano in fretta, perché altrimenti perdeva l'autobus. Augusto Cortelloni, avvocato del processo, descrive così il clima generale. Ecco le dichiarazioni di una bambina che hanno determinato le sorti degli imputati. Questo è il tenore. Di notte al cimitero delle persone incappucciate, con a capo il parroco, mi violentavano e mi facevano buttare per aria dei bambini che ricadendo morivano. Tagliavano le teste ai bambini che mi ruzzolavano addosso e poi le buttavano nel fiume. In questo caso la procura di Modena ha fatto spendere allo Stato inutilmente oltre 100 milioni di lire per dragare il fiume. Risultati zero. Ancora. In un ex salumificio ho visto decine di bambini squartati appesi a un gancio da macellaio che grondavano sangue e questo veniva raccolto per farcelo bere. Persino queste dichiarazioni sono state verificate con un formale sopralluogo della polizia. L'ispettore, anche lui coinvolto in questo clima da caccia alle streghe, rinvenendo una bambolina abbandonata, affermava a verbale che si trattava di sicuro oggetto usato dai satanisti nei loro riti. Ogni bambino coinvolgeva altri coetanei, sostenendo che anche loro erano presenti agli abusi e ai riti cimiteriali. Questi venivano immediatamente prelevati dalle famiglie e ceduti nelle mani delle psicologhe ASL. Il sostegno psicologico fornito li portava dopo qualche mese ad accusare genitori e parenti, custodi di cimiteri, sei parroci e perfino un vescovo, delle più truci e atroci violenze e a indicare altri bambini da prelevare. I fratellini, osserva Giacomo Mongodi, perito di parte e docente di psichiatria dell'Università di Pavia, descrivono situazioni, luoghi, comportamenti del tutto diversi. Coinvolgono minori come vittime e adulti come abusanti e maltrattanti, diversi l'uno dall'altro. Non c'è alcuna corrispondenza significativa nelle diverse versioni della stessa realtà. I fratellini non si rendono minimamente conto di raccontare il falso. Per questo motivo non sono attendibili. Cortelloni fornisce qualche altro frammento di dibattito processuale. Il fratello più piccolo racconta: «Al cimitero, invece, ci andavamo di notte in un camion nero carico di bambini, guidato di volta in volta da parroci diversi. Ce n'erano sei. Ci legavano alle croci e ci tiravano addosso dei lunghi coltelli. Cinque alla volta. Ma il papà li tirava piano perché cadessero subito a terra. Mi mettevano nel sedere lime, punteruoli e carta vetrata». A tutti i bambini facevano anche tenere in mano un ferro di cavallo rovente. Quello che lo reggeva più a lungo era il più furbo. Le altre sere, perfino tre volte alla settimana, andavo col papà al teatro della parrocchia dove sul palcoscenico timbravo e uccidevo bambini. E il giorno dopo che cosa fa questo bambino così atrocemente violentato e traumatizzato? Va a scuola come se niente fosse. Con l'indignazione popolare, le marce di protesta, le fiaccolate, le interpellanze parlamentari e le petizioni al Presidente della Repubblica, anche la stampa nazionale inizia a interessarsi ai pedofili della Bassa. I toni però cambiano. Le perplessità degli esperti intervistati diventano accusa precisa verso il modo d'agire degli inquirenti e verso la suggestività delle domande rivolte ai bambini. Secondo la prassi consueta, non viene quasi mai fornita una documentazione, una registrazione o un video degli interrogatori. Ciò non impedisce alla giustizia di fare il proprio corso. Con l'avvio dei processi, finalmente l'accusa cala i suoi assi, ovvero le perizie degli esperti di fiducia del PM. Con una certa sorpresa, questi decide che la più qualificata, data la delicatezza del caso, sia la dottoressa M., la stessa professionista che si era resa celebre per la teoria della riproducibilità dell'imene dopo la deflorazione, la stessa che ha fatto esclamare al PM Tiziana Siciliano: «Viene da chiedersi se sia una totale incompetente o sia una persona in mala fede». Per non sbagliare, veniva scelta anche una nota psicologa, ex segretaria di Telefono Azzurro, che si era già contraddistinta in numerose perizie giurate, ma sfortunatamente si era dimenticata di iscriversi all'albo degli psicologi, ricavandone una denuncia per abuso della professione. Gli effetti di un simile collegio d'esperti non tardarono a farsi sentire. La perizia medico-legale parla di centinaia di abusi, ma come al solito l'imene della bambina si è riprodotto con tale velocità che i consulenti della difesa, Francesco Acerboni, docente in ostetricia e ginecologia, e Fabio Buzzi, titolare di cattedra di medicina legale, non poterono che constatarne la ritrovata illibatezza, come risulta dalla loro perizia. Il resto è storia nota. L'indignazione del mondo accademico della psichiatria forense, la proposta di legge per l'abolizione del Tribunale per i minorenni, presentata da migliaia di cittadini il 6 giugno 2000, all'indomani della sentenza, l'assoluta chiusura del mondo politico e di quello dell'antiabuso a qualsiasi modifica in virtù della solita emergenza pedofilia. Il bilancio finale della vicenda sarà di 3 morti. Oltre a Don Giorgio, ci sarà il suicidio di una mamma, Francesca ed Eroclide, e il decesso per infarto di un fotografo, Alfredo Bergamini, 18 bambini requisiti dal Tribunale per i minorenni, milioni di euro spesi dall'erario tra indagini folli e parcelle gentilmente concesse a periti fidati, con contorno di denunce per abuso della professione, 17 persone incriminate, 14 condanne a 157 anni di carcere per gli imputati e la solita tardiva assoluzione. L'11 luglio 2001, giorno della sentenza d'appello, sono ormai 3 gli inquisiti che non possono ascoltarla perché deceduti, e una quarta ne sarà informata in Francia, dove ha trovato rifugio per evitare che il tribunale per i minorenni, dopo averle sequestrato 4 figli, le portasse via anche il bambino che aveva in grembo. Assoluzione per tutti gli imputati. Non esiste la rete dei satanisti. I bambini hanno mentito, sapientemente guidati da qualcuno che comunque, agendo in nome del bene supremo del bambino, non risponderà mai degli errori. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Luca Steffenoni, Presunto colpevole, la fobia del sesso e i troppi casi di mala giustizia. Chiare Lettere Editore, 274 pagine, 14 euro.